Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a te dry. Che appetito, Deborah, che appetito ci è venuto anche un po' durante la quarantena, non so a voi, ma ad esempio per me, insomma, c'è stato un problema che più che andrà tutto bene, il motto è stato andrà tutto stretto. Va bene, così non spero di te, anzi so che avrai mantenuto una linea invidiabile. No, devo dire che sono stata brava. Il mio cavallo di battaglia di questo periodo è stato almeno mangiamo bene, non troppo, non ho esagerato con... così cose un po' proibite, ma ho mangiato bene, devo dire che mi sono coccolata almeno da questo punto di vista. E c'è chi invece ha ripreso a coccolarsi con il caffè al bar, caro Mauro, e qualcuno ha trovato una sorpresina, ma non solo al bar, credo anche al supermercato, ma questo lo stiamo segnalando già da un po' di tempo, e in altri esercizi del commercio. Allora qua i prezzi cominciano un pochino a risalire. Eh sì, è così. Allora, a parte il caffè al bar che sta subendo degli scossoni che neanche i tuoi mercati finanziari, Deborah, perché ha delle oscillazioni, ecco, che vanno a 1,50 euro, qualcuno a 2 euro. Erano gelosi forse, non lo so. Non lo so, quasi quasi io lancerei anche una sorta di richiesta agli ascoltatori. Siete andati al bar a bere il caffè, l'avete trovato rincarato, mandateci un WhatsApp 349-238-6666, così, tanto per vedere se anche a voi è successo quello che segnaliamo in radio e sui giornali. Insomma, il caffè, dicevo, è un po' il punto su cui stiamo assistendo ai maggiori rincari, anche un po' disordinati. L'Istituto, esatto, per l'Espresso Italiano dice però che i consumatori, noi consumatori, siamo disposti a pagare di più. Del resto abbiamo aspettato per mesi per bere questo caffè, insomma ci pare anche, sì, normale dare qualcosina in più. E poi sempre l'Istituto per l'Espresso Italiano dice che comunque in Italia il caffè al banco resta tra i più economici in Europa. No, tra l'altro, Mauro, sai, abbiamo anche letto di queste notizie di chi forse per aiutare la ripresa del bar di fiducia in realtà lascia lì qualcosa in più, proprio in segno così un po' di spirito positivo, no? Ti aiutiamo a ripartire, c'è stato il caso di quel signore, adesso non che tutti facciano così, non che tutti debbano fare così, ma che addirittura al primo caffè della ripresa ha lasciato al suo amico barista 50 euro perché dice sono 50 giorni che non vengo a prendere il caffè da te, facciamo finta che lo abbia fatto in tutto questo periodo e quindi ti pago per questo. Quindi, ma questo non è, come dire, quel tema eccezionale che incide sull'inflazione generica. C'è qualche aumento perché chiaramente i costi per la sanificazione e tutto quello che devono fare adesso gli esercizi pubblici probabilmente si spalmerà ovviamente nei prezzi finali praticati ai clienti, agli utenti dei nostri, di tutti questi servizi. Ammoniamo che già l'antitrust ha avviato un'indagine sull'andamento dei prezzi per generi alimentari di prima necessità e anche per alcuni prodotti che in questo momento sono particolarmente richiesti, detergenti, sì, disinfettanti e guanti. Noi la buttiamo lì, ecco, c'è l'antitrust che ci guarda, sappiatevi regolare. Deborah. Senti, ma se anche i prezzi stanno aumentando, chi ha investito nel BTP Italia non si deve spaventare perché quantomeno ha questa protezione dall'inflazione. Allora pare che come dire, questa operazione patriottica del 16° BTP Italia si avvia ad una conclusione veramente con il botto. Ieri si è chiusa la prima fase, quella che consentiva al pubblico indistinto di sottoscrivere questo titolo di Stato. 14 miliardi di euro rastrellati, non era mai successo nella prima parte del collocamento delle emissioni precedenti di raggiungere una soglia di questo tipo. In questo momento è in corso invece il collocamento presso il pubblico istituzionale, fra un po' ci faremo raccontare come stanno andando le cose da Pietro Poletto di Borsa Italiana, ed è un tema che ci offre un assist perfetto per la rubrica del giovedì. Certo, perché oggi essendo giovedì noi avremo Investire Informati. Investire Informati sarà con noi Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment, quindi tornerà a trovarci Manuel Pozzi. Telefonicamente ancora dobbiamo tenere queste distanze di sicurezza, però i numeri, se volete intervenire, sono quelli abituali: numero verde per la diretta 800 24 00 24, come sapete questo è anche il numero per rispondere al domandone che vi porremo. Debora ne voleva uno difficilissimo, ma ho negoziato, ho trattato, sono riuscito ad ammorbidire la richiesta. E poi resta sempre il 349 238 6666. Già ve l'ho ricordato, se volete dirci avete trovato il caffè più amaro al bar, non nel senso dello zucchero ma nel senso del costo, ditecelo. 349 238 6666, se volete anche con SMS e WhatsApp. Annuisce di là dal vetro e la saluto volentieri. Chi? Perché è una new entry, Valeria Bernardi, che oggi è preziosa e deliziosa in regia, così come prezioso e ugualmente delizioso naturalmente Luca Cremonese alle sue spalle, e poi l'insostituibile, l'inarrivabile, l'inarrestabile Marco Lombardo, tutto sorveglia e tutto vede da remoto. Facciamo prima un giornale radio del risparmio, Debora? Sicuramente sì, perché abbiamo tante notizie proprio anche di carattere finanziario che ci sono utili poi per il proseguo della trasmissione. Via! Ta-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Cominciamo, Mauro, con questa freschissima, perché proprio poco fa Assogestioni ci ha raccontato come è andata l'industria del risparmio gestito nel primo trimestre di quest'anno, e non abbiamo belle notizie da raccontare perché, lo abbiamo spiegato più volte, molti risparmiatori si sono spaventati e quindi hanno portato a casa un po' del risparmio accumulato negli anni precedenti, e questo si è sentito proprio soprattutto sull'industria dei fondi di investimento. C'è una raccolta negativa in questo primo scorcio dell'anno per 12 miliardi di euro contro il saldo positivo invece di 17,3 miliardi del trimestre conclusivo del 2019. Il patrimonio gestito complessivamente è diminuito a 2.140 miliardi da 2.306 della fine dell'anno scorso, e quindi la crisi del coronavirus ha colpito duro soprattutto nella parte finale del trimestre, quindi sicuramente intorno a marzo, anche se c'è da ricordare che l'anno era partito un po' in salita fra incertezze del quadro macroeconomico, mercati sul lotto volante, mentre iniziavano ad arrivare dalla Cina le prime notizie sul virus. E questo è quanto abbiamo fino a questo momento, e magari proprio lo commenteremo più tardi con Manuel Pozzi. Intanto ti voglio dire, cara Debora, che il decreto rilancio, il decreto legge 34 del 19 maggio, così a lungo atteso, quindi finalmente l'abbiamo veduto in gazzetta ufficiale, sì, l'avevamo anche un po' così dileggiato, me ne scuso col signor decreto legge. Allora, è apparso sul supplemento ordinario numero 21 dalla gazzetta ufficiale del 19 maggio, già su quella del 20 maggio, sulla stessa gazzetta ufficiale del 20 maggio ci sono poi due correzioni di due errori materiali, insomma due refusi, però su 266 articoli cosa vuoi che sia. Io ti voglio dire, adesso ti do due segnalazioni utili per la nostra rubrica del giovedì per Investire Informati, però quasi quasi non c'ho voglia di leggerlo, aspetto i bigini che da domani il Sole 24 Ore manda in edicola. Domani si comincia con un focus dedicato alle novità fiscali e poi si proseguirà con le novità per il lavoro, mercoledì prossimo la casa, giovedì prossimo le imprese. Insomma, anziché leggere 266 articoli, io quasi quasi stavolta faccio un gesto così di ribellione. E anziché andare in giro a prendere l'aperitivo senza la mascherina, non leggo la gazzetta ufficiale. Ecco, l'ho detto, invece sto mostrando. Non ti riconosco più. Sto mostrando. Questo Covid ti ha cambiato. Il lockdown mi ha cambiato non profondamente. Non sei più quello di una volta. No. Allora, sto mostrando già in anteprima mondiale il fascicolo che troverete domani in allegato al Sole 24 Ore. Novità fiscali del decreto rilancio. Esatto, però magari quei due articoli che ci hanno stuzzicato l'attenzione puoi segnalarli, perché riguardano il mondo del risparmio e soprattutto la sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi, che vabbè, dice il decreto rilancio, dovranno essere sono operazioni che dovranno essere effettuate in modo semplificato. Se è una nuova parola d'ordine del prossimo futuro. Certo, ma anche guarda, in conclusione di questo decreto rilancio, 266 articoli, il 264 dice che ci sono delle semplificazioni, quindi in fondo a tutto il decreto ci sono ricordati. Allora va bene, solo perché lo chiedi tu, l'articolo 33 sì. dice che anche se il cliente esprime il proprio consenso con l'indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purché questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, insomma gli dovete mandare il PDF della carta d'identità o della patente per capirci, ecco, tutto questo fa sì che sia valido per concludere un contratto di sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi. Potete sottoscrivere una polizza, insomma, da remoto senza avere troppe incombenze, dovervi recare appositamente in agenzia o allo sportello. E poi ce n'è uno anche sui buoni fruttiferi postali. Perché, quello è interessante. Perché l'articolo 34 del decreto legge, che porta il medesimo numero 34, dice che i contratti relativi al collocamento dei buoni fruttiferi postali, dematerializzati, questo lo sappiamo, non è una novità di questo decreto, a decorrere dal 19 di maggio fino al termine del periodo di emergenza del Covid, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale. Sembra quasi propedeutico, Deborah, per avere una maggiore facilità così di raccolta delle risorse, oppure no? Che ne dici? Assolutamente, ma sai perché? Allora, adesso ovviamente io parlo di indiscrezioni di cui ho letto peraltro molto sul Sole 24, ne scriveva Gianni Trovati nei giorni scorsi. Dopo il BTP Italia è possibile che il Tesoro o comunque lo Stato lanci un'altra operazione similpatriottica, e qualcuno aveva parlato della possibilità di un coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti e forse di un buono postale, di un buono fruttifero postale. Allora così ho immaginato che questo articolo potesse essere propedeutico proprio a questa operazione, che faciliterebbe da parte di tutti i clienti delle poste la sottoscrizione di un titolo come questo. Ma insomma è una mia congettura, vedremo se si verificherà prossimamente. È tardi tardissimo, Mauro, andiamo a sentire che cosa ci racconta Piero Poletto stamattina? Sono tutto orecchi. Dillo a due di denari. Allora, non abbiamo raccolto un messaggio vocale, abbiamo raccolto però due mail di due ascoltatori che ci hanno segnalato la loro, tra virgolette, disavventura in questi giorni di sottoscrizione, di possibilità di sottoscrizione del BTP Italia al pubblico indistinto. Abbiamo raccolto la testimonianza di Damiano e Maria, che più o meno hanno avuto la stessa vicissitudine. Diciamo che per Maria non è stato possibile fare la sottoscrizione in posta del BTP Italia. Lei si è molto risentita, ma in realtà secondo noi non si è proprio comportato male l'ufficio postale al quale si è rivolta appunto l'ascoltatrice, perché lei ha un piccolo deposito sul conto postale e chiedeva la sottoscrizione di un titolo di Stato che tutto sommato per il rating che ha, che è quello del debito italiano, era considerato secondo il profilo di rischio dell'ascoltatrice un investimento un po' a rischio. Poi può essere tutto discutibile visto che lei chiedeva di sottoscrivere 1.000 euro, ma la risposta forse del consulente alla posta è stata anche corretta. A Damiano invece è capitato che si sia rivolto allo sportello bancario, ma l'abbiano un po' procrastinata la consulenza per la sottoscrizione delle BTP, e quindi credo che alla fine lui non abbia più fatto in tempo, perché lo hanno rimandato da un giorno all'altro per l'appuntamento. Anzi no, anche per lui il referente era un consulente presso un ufficio postale. E allora sarebbe interessante capire, ma magari questo più che con Piero Poletto lo dovremmo chiedere più avanti al Ministero dell'Economia, come mai proprio alle poste sono stati un po' più resistenti nei confronti degli interessati. Mauro, che ne pensi? È un aspetto, diciamo, che non ci attendevamo. Sentiamo cosa ci dice intanto Piero Poletto, sia su questi aspetti, sia così sulla giornata conclusiva. Siamo per la giornata degli investitori istituzionali. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi, Pietro Poletto. Come sta andando? Molto bene. Presente, la interroghiamo subito. Allora, ci sono ordini per oltre 12 miliardi e 7 per ora sul book, per cui una richiesta molto importante. Tenete conto che l'asta del collocamento per l'istituzionale chiude a mezzogiorno, per cui probabilmente aumenteranno ancora la richiesta. Quindi, potrei essere facile profeta che ci sarà un riparto. Tra gli istituzionali, segnaliamolo. Sì, esatto, perché questo era molto temuto anche dai risparmiatori. Qualcuno ci aveva scritto: la mia banca ha detto che non posso accedere a tutto quello che ho richiesto, ma invece per il retail non è così. In questa edizione è stato ampiamente detto e confermato che il Ministero avrebbe accettato tutte le richieste in ambito retail. Ecco, ma e così è stato, peraltro, perché ieri abbiamo chiuso con quasi 14 miliardi. Beh, a questo punto poi si può acquistare sul secondario, come si dice. Cioè, assolutamente si può... sul secondario da martedì è negoziato sul MOT di Borsa Italiana. Ovviamente chi lo compra sul secondario perde il beneficio del premio fedeltà. E ecco, anche bravo, dovrà, te l'ha probabilmente, detto perché ce l'hanno chiesto, sì. Dovrà scusami, anche probabilmente corrispondere alle commissioni. Se... E ovviamente le commissioni che normalmente paga per acquisto di titoli di Stato in secondario su contratto intermediario. Certo, quindi insomma era ghiotta, cioè, conteneva alcune facilitazioni ghiotte questo BTP Italia per il retail fino alla giornata di ieri. Ieri, certo. Esatto. Deborah. È stato poi stamattina confermato dal Ministero dell'Economia il tasso annuo, il rendimento 1,40. Definitivo riconosciuto all'1,40, esattamente quello che era già stato anticipato venerdì, non ha subito dei correttivi appunto, e quindi confermiamo che il rendimento per questa emissione è questo. Altre cose da spiegare agli ascoltatori, Poletto, adesso a prescindere dal fatto che attendiamo con ansia che arrivi mezzogiorno per capire l'esito finale dell'operazione, lei vuole dire qualcosa che... sul tema dello sportello a cui rivolgersi per sottoscrivere? Beh, onestamente ovviamente non è un tema di oggi, una novità, si poteva sottoscrivere online tramite gli on-bank, tramite tutti gli sportelli bancari e postali, quindi bisognerà semmai chiederlo agli uffici postali le disavventure che hanno avuto alcuni risparmiatori, ecco. Però teniamo anche conto che poi quando uno compra il titolo poi deve aprire anche contestualmente un dossier titoli, per cui è anche già verificare che l'investitore che non per la prima volta compra un titolo abbia anche contestualmente aperto un dossier titoli presso l'intermediario finanziario. Va bene, allora Mauro, io direi di fare una cosa: per le disavventure in posta ormai purtroppo non si può fare più nulla perché il collocamento per il retail è terminato, però chiederemo ragione di questo comportamento. Per quello che riguarda l'ascoltatrice io lo ribadisco, piccolo risparmio sul conto, di conseguenza non le hanno consentito di sbilanciare troppo la sua posizione con un titolo che per il rating che ha forse è considerato a rischio, e quindi evidentemente avrà avuto una profilatura MiFID molto molto prudente, e di conseguenza le poste non le hanno consentito di fare questa operazione. Per l'altro, per il quale il consulente invece ha tergiversato nella prendere l'appuntamento, è un atteggiamento un pochino più discutibile. Possiamo provare a fare una cosa, intorno alle 11:55 richiamare Poletto al volo per capire gli ultimi minuti come stanno andando? Non riesco perché sono già in collegamento, non riesco, perché se voi ci sentiamo dopo. Oh mannaggia, come mi si è fatto prezioso Pietro Poletto in queste giornate. Purtroppo grazie. Non importa. È facile gestire un'operazione di questo importo. Ma così lo immaginiamo, ne abbiamo la sensazione. Grazie. Buon lavoro. Ciao a tutti, grazie. E allora salutiamo Pietro Poletto, responsabile dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana. Vi abbiamo dato questa primizia, per così dire, del notevole gradimento manifestato dagli investitori istituzionali in questa giornata, unica giornata, uniche due ore riservate all'acquisto del BTP Italia. E adesso, cara Deborah, io passerei al nostro altro ospite che è già in collegamento, e quindi lo saluto. Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment, buongiorno, bentornato a Due di Denari. Buongiorno a tutti voi e grazie di nuovo per l'invito. Allora, Deborah, lanciamo anche una sigletta adeguata. Sì, così lo incorniciamo come si deve. Altrimenti pare che qui gli ospiti li facciamo entrare così, senza neanche celebrarli un momento, dare un minimo di accoglienza, ci dia il cappotto, insomma, si metta comodo, vuole qualcosa da bere. Mandiamo una sigla, Valeria. Investire informati. Sì, c'è da dare la caccia alle notizie in questo periodo per investire in maniera consapevole, a giudicare da tutto il popolo del piccolo risparmio